metti una sera a cena, ci cambiasse la vita, e che tutti quei sogni che hai dentro potessi avverare. Penserai che è scena, è tutto in una cena, è tutto in una cena. Metti sugo sulla pasta, mettici il fatto che questi anni vanno male. Metti che alla fine dei conti avevi ragione. Metti il caso, metti il caso. Mettici quello che ti pare e piace. Metti i piedi fuori dal finestrino quando è estate. Mettici un po' di amore. Metti una sera a cena, ci cambiasse la vita. E che tutti quei sogni